want me, me, me, me, me, me, me, me, me, me. One, two, one, two, two, two, hey, hey. Check one, two, mic check, one, two, mic check, one, two. Sound check. Microphone check. Il suono della musica. Di DJ Telespo. Pomeriggio da Gigi Telesforo, puntualissimi come sempre su Radio 24 per dare il via all'appuntamento numero 105 del nostro soundcheck, la nostra prova del suono che oggi dedichiamo alla figura professionale importantissima per le etichette discografiche ma anche per gli artisti, quella del produttore discografico. Una persona che nel corso della produzione di un disco ricopre diversi ruoli, tra i quali figurano la supervisione delle sessioni in studio di registrazione, la preparazione e la guida dei musicisti e la supervisione dei processi di realizzazione di un album, che vanno proprio dagli aspetti tecnici riguardanti la registrazione, il missaggio e la masterizzazione. Ma oltre a questo ruolo tecnico, nel corso del XX secolo i produttori discografici hanno assunto un crescente ruolo imprenditoriale. Ecco, l'articolo 78 della legge del 22 aprile 1941 numero 633 in materia di diritto d'autore definisce il produttore di fonogrammi come la persona fisica o giuridica che assume l'iniziativa e la responsabilità della prima fissazione dei suoni provenienti da un'interpretazione o esecuzione musicale. Il produttore di fonogrammi, in quanto tale, conserva taluni diritti esclusivi di utilizzazione sui fonogrammi, e tali diritti, definiti diritti del produttore di fonogrammi, sono regolati da varie leggi e vari articoli. Il primo producer discografico pare sia stato il signor Fred Gainsbourg, che nel 1880 in un primo studio di registrazione, approntando una prima approssimazione di produzione, realizzò così le prime registrazioni delle cantanti d'opera di allora. Tuttavia, soltanto nella prima metà del XX secolo il ruolo di produttore discografico divenne comparabile a quello già esistente nel cinema del produttore cinematografico. E in questo lavoro il produttore iniziò così ad organizzare e supervisionare le sessioni di registrazioni, pagando i tecnici, gli studi, musicisti, arrangiatori, a volte i compositori, a volte scegliendo anche il materiale per l'artista prodotto. Ma diamo il via alla musica con un songwriter che da sempre produce il suo repertorio e la sua discografia. Vi sto parlando del bravissimo Dave Matthews, che qui ascoltiamo con la sua strepitosa band in un successo di qualche anno fa. Il brano si intitola Stay, Dave Matthews Band al soundcheck di Radio 24. Just the other day, yeah, yeah, yeah. And it was so hot outside on a good Friday. Gone. Remember you were talking, and I watched as sweat ran down your face. Reached up and I caught it at your chin. Licked my fingertips. We were just wasting time. Let the hours roll by, doing nothing for the fun. A little taste of a good life, whether right or wrong, makes us wanna stay for a while. Began to fade, and then, well, the clouds rolled over our head, and it began to rain. Oh, we were dancing, miles open, we were splashing, and the tongue taste, and for a moment, this good time would never end. was wasting time. I was kissing you, kissing me, love. A good day until the moonlight. Now a night so fine makes us wanna stay, stay, stay. This thing when it all rolls by. What a day. I wanna stay, stay, stay, stay, stay. Brano scritto e prodotto dal bravissimo Dave Matthews in questo appuntamento del Soundcheck di Radio 24 dedicato alla figura professionale importantissima nello show business musicale, quella del produttore discografico. Soundcheck. Il suono della musica. Sting, che qui al Soundcheck di Radio 24 abbiamo ascoltato in una versione dal vivo di Set Them Free, ormai da molti anni produce in prima persona le sue opere discografiche per poi affidarle alla sua multinazionale per la diffusione e la commercializzazione. Ma negli anni 50 ecco, appare nelle case discografiche la figura dell'AR Director, il manager sotto contratto con la casa discografica, proprio sul libro paga della casa discografica. discografica, un dipendente che ha il compito, da bravo talent scout, di scovare i potenziali artisti, metterli sotto contratto e poi seguirli in tutta la fase di produzione di un album fino alla sua commercializzazione. Questo succedeva anche perché allora le case discografiche erano anche proprietarie degli studi di registrazione, come per esempio gli Abbey Road Studios di Londra, che erano di proprietà della EMI. Quindi a un certo punto alcuni imprenditori investono su studi di registrazione che vengono noleggiati anche da figure esterne alle case discografiche. Appare così la figura professionale del producer indipendente. Quindi, diversamente dalle vecchie e grandi etichette, che erano in pratica dei circoli chiusi, i nuovi studi potevano essere utilizzati da chiunque fosse desideroso di registrare le proprie performance. Con l'avvento degli studi indipendenti, la nuova generazione di intraprendenti produttori fu capace di creare e occupare una nuova fetta di mercato nell'industria, con un nuovo ruolo di maggiore complessità nel processo musicale. Sì, perché se una volta gli artisti appartenevano alle case discografiche, quindi erano scovati dai direttori artistici, oggi appare la figura del produttore indipendente che ha i suoi artisti e poi li affida alla casa discografica per la promozione e la distribuzione. Facciamo un'altra pausa con la musica per ascoltare la voce di Curtis Mayfield dall'ultimo album prima della sua scomparsa, avvenuta ormai diversi anni fa. Il brano si intitola Here But I'm Gone. Curtis Mayfield al soundcheck di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Eh sì, oggi al Soundcheck di Radio 24 stiamo raccontando l'evoluzione del ruolo del produttore discografico per la realizzazione di un bel disco. Siamo arrivati al punto in cui appaiono sulla scena i produttori indipendenti, che così hanno un ruolo sempre maggiore all'interno del processo di produzione discografica, accentrando su di sé molti dei procedimenti, come la selezione e l'arrangiamento dei brani, la supervisione delle sessioni e spesso l'ingegneria del suono, e non raramente la stessa scrittura dei brani con gli artisti. I produttori indipendenti e le loro compagnie hanno rapidamente guadagnato interesse nella musica, soprattutto nella musica pop, diventando presto i principali intermediari tra gli artisti e le etichette discografiche, segnando nuovi artisti sotto contratto, producendo dischi e licenziando prodotti finiti alle etichette, che si devono occupare soltanto della stampa, della promozione e della distribuzione. Capendo però di avere a disposizione il potenziale per la creazione di dischi che rappresentavano in tutto la loro visione musicale, diversi artisti hanno iniziato a realizzare dischi propri. Al tempo stesso anche alcuni produttori si sono trasformati in artisti solisti, spesso creando dischi con anonimi musicisti di studio e realizzando il prodotto con uno pseudonimo. E come risultato di questi cambiamenti, i produttori hanno iniziato ad avere forte influenza, non come carriere individuali, ma in generale proprio sul corso della musica pop contemporanea. E a questo punto appare sulla scena un'altra figura. Sì, perché la coincidenza del lavoro di realizzazione delle tracce e il ruolo dei DJ nell'hip hop, dopo che questa musica a fine anni 70 iniziò a trovare spazio sui dischi, c'è la creazione del ruolo del DJ producer, detto anche semplicemente produttore o è beatmaker. Ecco, dalla semplice selezione e missaggio dei dischi, i disc jockey con i loro amici rapper realizzavano le proprie performance, e quindi la figura del beatmaker ha iniziato un percorso che, attraverso l'utilizzo delle drum machine e i campionatori, sino alle moderne tecnologie legate soprattutto ai software musicali, li ha portati a diventare a tutti gli effetti una delle componenti principali della musica hip hop e più in generale della black music. Music. Un esempio, eccolo qui, Q-Tip, formidabile rapper contemporaneo, producer discografico con Getting Up qui al soundcheck di Radio 24. Getting up, come on, we're getting up, come on, we're getting up, yeah, I'm sure that we can where you're going, cause per chiudere questo appuntamento del soundcheck potremmo dire che il ruolo del produttore discografico si è evoluto così come si è evoluta la tecnologia. Sì, perché oggi il produttore è spesso la sola persona coinvolta nella creazione di una produzione musicale. È responsabile al tempo stesso della scrittura, della realizzazione, della registrazione, dell'arrangiamento del materiale. Il termine producer è sempre più sinonimo di musicista in questo campo e questo cambiamento è stato causato anche dalla proliferazione di software di produzione musicale che consentono la realizzazione per intero di tracce anche attraverso l'utilizzo di semplici computer casalinghi e quindi eliminando la necessità di interi team di produzione, a volte eliminando anche i musicisti. Certamente se sei un musicista allora le cose cambiano, il risultato non può che essere ottimale come quello realizzato dal trombettista di New Orleans Nicholas Payton, che qui ci dà un esempio di grandissima abilità da eccellente polistrumentista qual è, in questo brano intitolato Give Light, Live Life, Love. Nicholas Payton chiude questo appuntamento della nostra prova del suono dedicato al producer discografico, quindi noi ci risentiamo la prossima settimana, lunedì sempre alle 15:20, sempre su Radio 24, quindi grazie a tutti, buona giornata e buona musica da GG Telesforo. Check. Il suono della musica.